sederci e parlare di Gandhi e di tutti quelli che hanno illuminato i nostri mondi. Quando capiremo che la terra ha un suo respiro, meraviglioso ingegno di equilibrio, una lana di vino, dell'orgoglio, dell'insicurezza, ne farai stracci di pezza, che libero è davvero, ci mette sempre la faccia, ritroverai tanto, tanto di quel grano da riempire il tuo granaio con i frutti del tuo fieno e di cieli e di venti saranno al tuo fianco a dare mano, a dare voce ad ogni tua alba, ogni tuo tramonto è nel tuo che germogliano le radici, è nel tuo che si accendono le luci, ritroverai quello che hai amato e soprattutto ritroverai tutto quello che hai donato. Vorrei come non mai fotografare il tempo, abbracciarti, ora abbracciare tutto il tuo silenzio, darti sollievo per superare ogni momento. Quando la tristezza spezza le ali del vento, ritroverai tanto, tanto di quel grano da riempire il tuo granaio con i frutti del tuo fieno e di cieli e di venti saranno al tuo fianco a dare mano, a dare voce ad ogni tua alba, ogni tuo tramonto, ad ogni brivido, non abbassare mai la guardia. Segui il tuo cuore, la tua innocenza, senza superbia. Nella mansarda del tuo io troverai una galassia piena di stelle, ogni tuo angelo, ogni tesoro pieno di perle. Olio per ungere ogni tuo sguardo, ogni tua meta. Tu sogna, sogni che la vita gira come una ruota. Troverai spine e anche bocche piene di fango. Tu traccia dritto, segui il tuo istinto, segui il tuo vento. Ritroverai tanto, tanto di quel grano da riempire il tuo granaio